ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 22esima puntata. Una notte freddissima e tersa, da una banchina danneggiata e in disuso 3 chilometri a nord di Savona, una nave clandestina sta per salpare. 900 profughi ebrei, donne e bambini, ammalati, pochi uomini validi, salgono a bordo o vengono issati in silenzio, con grande efficienza e rapidità. Nella pancia della nave, per accoglierli sono state predisposte strutture di legno paradossalmente simili, per l'esigenza di sfruttare ogni spazio, alle cuccette dei lager. Silenzio e fretta. Dalla banchina Ada guarda la nave allontanarsi verso il mare aperto. Quella nave, come tante prima e dopo, in gran parte è opera sua. Le altre si chiamavano Fede o Shabtai Luzinski. La più nota si chiamerà Exodus. Questa è la Enzo Sereni e guardandola beccheggiare Ada rivede flottiglie di carta e sughero e i giochi insieme e l'amore. 12 gennaio 1946. Dalla Enzo Sereni ad Alon. Il sovraffollamento è indescrivibile. Abbiamo molti malati in cattive condizioni. Le medicine non sono sufficienti. L'acqua, già razionata al minimo, basterà per altri 8 giorni da oggi. Il mare è cattivo. 15 gennaio 1946, dalla Enzo Sereni ad Alon. Abbiamo razionato al minimo anche il vitto. La gente è molto debole, il tempo è migliorato, i malati stanno meglio. 17 gennaio 1946, dalla Enzo Sereni al comando. Una nave da guerra inglese si sta avvicinando. Il comandante ci ha intimato di fermarci. Noi abbiamo rifiutato. La nave fu catturata e sequestrata, i profughi internati nel campo di concentramento di Atlit. Ma dall'Italia, grazie alla fantasia ebraica e al buon cuore degli italiani, non sordo all'interesse, molte altre navi Ada riuscì a far partire verso la speranza. Fra chi partiva per speranza o disperazione e chi restava per scelta o per paura, si creò una rete fitta di solidarietà e una frattura insanabile. Parigi, 30 agosto 1946. Ieri, tornando da Bruxelles, un telegramma al mio indirizzo all'ambasciata italiana. Me ne avverte Reale, mentre con lui e con Arpesani ci richiamo al ricevimento che l'Italia Libera dà in onore di Bonomi e mio. Ritorno indietro e prendo il telegramma. Tutto benissimo. Femmina. Baci, Xenia. E così è nata Cirillina. All'Italia Libera, subito dopo, un discorsetto di Bonomi e poi qualche parola mia. Penso ad altro. Non penso a Cirillina, ma Cirillina è nell'atmosfera. Ora mi accorgo che è stata nell'atmosfera tutti questi giorni del mio soggiorno a Parigi e a Bruxelles. Anche quando girovagavo distratto per le vie di Parigi, anche quando frugavo nelle casse dei miei libri, accumulate in una cantina di Rue des Pyrénées. Li ho ritrovati finalmente i miei libri e spero di averli fra pochi giorni a Roma. Li ho riconosciuti uno per uno, quelli almeno che spuntavano fuori dalle casse meno sconquassate. La collezione di Stato Operaio non ho potuto fare a meno di prenderla subito con me, sistemandola in una valigia. E ho risfogliato la collezione, ho ritrovato i miei articoli, dai primi scritti in Italia e pubblicati dopo il mio arresto, sino agli ultimi, scritti alla vigilia della guerra. Vorrei ripubblicarne una parte in volume sotto il titolo Capitalismo e fascismo in Italia. Rappresentano, mi sembra, un tutto abbastanza organico e non semplicemente occasionale. Ma questo è un altro discorso. Adesso mi importano i miei libri e Cirillina. I miei libri sono il mio lavoro di tanti anni e Boulevard Voltaire, con la sedia di stato operaio, e Marinella che si trascina a ranocchia per il lungo corridoio. Era cirillina anche lei, allora. Ed ora questo è un altro involtino di felicità. Tutta una famiglia di libri e di articoli e di vita e di lavoro e di amore. Tutta una cosa che continua ed espande la mia persona. È un'atmosfera intorno a me, come quella di Loletta, come quella di una folla con la quale in un bel comizio riesco a stabilire un contatto vivo. Ma questa è un'atmosfera più calda e più ovattata. Loletta durante la gravidanza mi parla sempre di questo involucro ovattato che la circonda, che attutisce tutti gli urti, che protegge la sua maternità. E anch'io, pur non pensando a Cirillina, sono un po' in questa atmosfera. Forse anche la stanchezza verso la conferenza della pace non mi sento proprio attratto. Svogliatamente ho partecipato a qualche riunione, ho visto qualche personalità. A Bruxelles ho visitato le miniere dove lavorano i minatori italiani, ho partecipato al congresso del Service Social, svogliatamente, senza passione, io che mi appassiono sempre a tutto. Ho camminato per più di un'ora a 1200 metri di profondità nel pozzo di Sacré Madame, a Charleroi, uno dei più profondi del mondo. Ho marciato faticosamente nella polvere di grasse e di carbone, tra i binari della Decoville. Mi sono trascinato carponi nella taille a parlare sul luogo di lavoro coi minatori italiani. Svogliatamente. Non ho sentito il loro lavoro, la loro sofferenza questa volta, anche se avevo male alle reni. L'ovatta intorno a me. Quanto ai comizi, al più vorrei farne uno come quello dell'Odeon di Milano. Quando partii, che avevo un groppo alla gola e raccontai delle barzellette per non piangere. Insomma, Cirillina mi fa diventare romantico. E poi la voglio vedere, questa mia vita calda. Forse proprio per questo mi piace star solo in questi giorni, perché mi piace sentir scorrere più calda la vita. È curioso come in questi ultimi mesi o in questi ultimi anni io abbia per la prima volta compreso il valore assoluto dell'arte. I think of beauty is a joy forever. Ho letto sempre fino a tardi la sera. Non ho dormito molto, ma mi sono riposato in questi giorni. Domani partenza e al lavoro. Ma qualche volta la sera, appena Loletta sarà tornata a casa, voglio suonare sull'armonica delle canzonette. Con le figliette, dopo cena, o mentre si fa il bagno a Cirillina. E voglio sentire l'odore del tacco sul suo corpicino. Nostra figlia, tanto amore nostro, con Loletta. Al centro dell'antico giardino il palco era una macchia netta di colore. Un camion di terza o quarta mano con le spallette abbassate e sopra tanti drappi rossi, tende di velluto requisite e sopraccoperte damascate portate dalle case, le stesse che venivano esposte alle finestre per la processione di San Gennaro. Aspettavano il ministro già da un pezzo perché aprisse le danze. E già serpeggiava un certo nervosismo negli organizzatori e fra i suonatori in divisa della banda. Quando scese dall'automobile lo accolse un applauso. Gli si fecero attorno, stretti, e chi lo salutava per nome e chi gli batteva sulla spalla. A tutti rispondeva con efficienza e precisione e convinzione, senza mostrare stanchezza, senza ripetersi mai. La banda attaccò bandiera rossa. E tutti si misero a cantare con i pugni levati e l'accento napoletano che addolciva le parole. Però la rabbia di tante ingiustizie, secolari e recenti, si faceva strada attraverso i mandolini e il coro si concluse con una nota aspra, incattivita. Il ministro si avvicinò al megafono e tutti si aspettavano che ora si ballasse. Le ragazze, che avevano indossato i vestiti migliori e le scarpe dal tacco ortopedico, gli uomini, che avevano raccolto i soldi per la festa e per la campagna elettorale nei bassi e dai contadini, fra i contrabbandieri del porto e nelle fabbriche. Si fece silenzio. Il ministro si raschiò la gola, ringraziò tutti per il lavoro svolto e per l'impegno. Malgrado il tono popolare che si imponeva, conservava una certa aria da professore, più marcata, quando disse «Ma ricordatevi, compagni, che la bandiera rossa non va mai disgiunta dal tricolore». Ci fu un brusio. Quel popolo di sfruttati e oppressi e vinti non gradiva il richiamo all'unità nazionale, a un progetto che non prevedeva lo scontro frontale con chi da sempre aveva comandato. Ma lui insisteva che soltanto tutti uniti, tutti insieme, si poteva vincere la guerra di adesso, la battaglia della ricostruzione. E la passione convinta e autorevole delle sue parole placò l'uditorio. Anche perché pensavano a un trucco, a un contentino per le spie sempre presenti, ad una rivoluzione soltanto rimandata. E intanto si poteva ballare. Alla fine del comizio, l'ennesimo della giornata, Mimmo rispondeva ancora a domande e richieste, ma svuotato, con le spalle indolenzite da una responsabilità che gli sembrava troppo pesante. Per i suoi dubbi, per le incertezze che anche lui viveva, non c'era posto. Quelle donne e quegli uomini avevano bisogno di sicurezze senza sfumature. Alla voglia di responsabilità e leggerezza, al desiderio di qualcosa di diverso che a tratti lo attraversava, soltanto nei sogni poteva consentire di vivere, ma avvertendone tutto il rischio. Dunque perfino lì Mimmo si preoccupò di mantenere il controllo. Qui noto i sogni, magari i sogni più sciocchi, la materia bollente e fluida e tempestosa che mi piace di dominare, come la lava di un vulcano che si plasma, ma ci si scottano le mani, come il sogno di stanotte. Mi scambiavo la testa con quella di Caccioppoli e nel mio corpo tozzo, abituato al mio testone, quella testa piccola e fine, acuta, si trovava benissimo. Avevo un senso di leggerezza e di disinvoltura, stavo benone. Mi è molto dispiaciuto quando poi ho dovuto rendere a Caccioppoli la sua testa. E il bello è che nel sogno, mentre si compiva l'operazione dello scambio delle due teste, seguivo con grande interesse scientifico tutto il processo e mi domandavo se la mescolanza di due gruppi sanguigni, di cui non si era determinata preventivamente la qualità, non avrebbe determinato fenomeni di agglutinazione e conseguente trombosi. Era molto tempo che non sognavo o che non ricordavo i miei sogni. Tutto compreso, la mia testaccia è abbastanza pesante da portare, ma è abbastanza difficile da cambiare, anche senza tener conto dei gruppi sanguigni. E in questi ultimi tempi questa testaccia mi ha un po' stancato il cuore. Fortuna che Loletta mi dà una mano a portarla e sa tacere, anche quando non sa parlare. Da piccolo, dice mamma, sbattevo la testa contro il muro per vedere cosa era più duro. Forse le difficoltà sono cominciate allora. E riuscivo a far cadere i calcinacci dal vecchio muro che c'era in terrazza a via Cavour. Magari ora i muri sono costruiti più solidamente, moderni, all'americana. Xenia ha sempre molti impegni, il partito e il lavoro e le figlie e qualche altro lavoro di traduzione perché i soldi non bastano mai. Così, quando per un'ora o due si trova sola in casa, senza obblighi impellenti, il tempo a disposizione è un baratro improvviso, ingombro di minacce. Può capitarle di chiedersi che fine ha fatto la sua giovinezza o quale vuoto abbiano scavato dentro gli affetti recisi, le occasioni perdute, tutte le scelte che ha dovuto compiere senza Mimmo. Anche le ore con la bimba non sono facili e tutte diverse da come Xenia le aveva fantasticate durante la gravidanza. Per le ansie che la invadono ad ogni colpo di tosse, per la noia che, di sorpresa, la coglie dentro quel rapporto che le malattie rendono pesante e troppo esclusivo. Ha imparato ad essere fortissima, Xenia, e tutti ormai si aspettano che lo sia, tanto più in questa vita più morbida, meno a rischio, che ora le si distende davanti. Ma c'è ancora, dentro di lei, una piccola Xeniuska che si intenerisce per un fiore o per un piede di rabarbaro, e che come allora si rifugia per leggere una lettera di Mimmo nella solitudine di un bagno o di uno sgabuzzino. E Mimmo, quando è via, le scrive molto, lunghe lettere amorose e disegni e poesie. Loletta mia dolce, questa volta vorrei tornare presto perché voglio bene a Loletta, ma la questione qui è più complicata. Mi è accaduto anche altre volte di voler bene a Loletta, ora è diverso, sai perché? Forse comincio decisamente a invecchiare. durante questo viaggio a Parigi. Non so come. Ho proprio finito di convincermi che all'infuori di Loletta non c'è nessuno, e soprattutto nessuna, che possa davvero sopportarmi. Chissà che in vecchiaia non diventi partigiano convinto della monogamia. E quel che è peggio, come mi accade in questi giorni, partigiano della monogamia non solo quanto all'avvenire, ma perfino rispetto al passato. Perché ogni immagine del passato all'infuori della tua ora mi appare così lontana ed estranea, non mia immagine, ma come una morta immagine di film sullo schermo che non ha calore né vita. A Loletta, insomma, ora voglio bene come sempre, ma più di sempre, diverso da sempre, nuovo da sempre. Amore fatto di tutta la nostra vita, di tutta la nostra lotta, di quel che abbiamo fatto e vinto insieme. Amore fatto dell'amore di Loletta e della sua pazienza fedele. Insomma, proprio Loletta, storicamente, scientificamente determinata. L'unico amore di Uriello che possa sopportare il suo amore, che possa sopportare un tipo che non dice mai «t'amo, t'adoro», che non dice mai sei la più bella donna del mondo, che non dice mai non posso vivere senza di te. E non te lo dico neanche ora, perché mi basta dirmi che ti voglio bene e che siamo Uriello e Loletta con le figliette, che hanno tanto lavoro da fare insieme. Tutto quanto sopra non esclude, ben inteso, che i Quai de la Seine abbiano conservato tutto il loro fascino per me. Visto che Guttuso è nella stanza accanto, ho detto a lui di descriverti la mia vita parigina. La rappresentazione è perfetta e mi esime dallo scriverti più a lungo. Figura in alto, sereni sui Quai de la Seine. Sfoglia i volumi, benché ne abbia già altri sotto il braccio, e alcuni a terra. Guttuso va dietro a una ragazza le cui forme procaci non sono tuttavia sfuggite all'occhio di Sereni. Scena seconda, in basso a destra. Sereni, in mutande, appena alzato, declama versi. Scena terza, in basso a sinistra. Riunione del comitato, alla Maison de la Pensée Française. Fadiev, Aragon, l'abate Boulier, una hindù, eccetera. Tavoli rotondi con altri partecipanti. Sereni, con tre teste, a bocca aperta, traduce contemporaneamente in tutte le lingue. Una riunione di donne comuniste, Xenia al tavolo della presidenza. Tanti abiti grigi, severi. Per gli esiti della guerra, per la disciplina di partito. Quando la discussione già si avvia alla conclusione, Xenia dal fondo vede entrare Leuzzi, in ritardo come sempre, arrossata dalla corsa. Leuzzi si siede dove può, sorride a sua madre che corruga appena la fronte e abbassa gli occhi, evitando complicità, perché le sembra che quella figlia le somigli troppo, proprio in quegli aspetti di sé che ha messo da parte. Leuzzi fa sorrisi e saluta, non sta ferma sulla sedia, si distrae e distrae. La vitalità giovane che la attraversa contagia chi le sta vicino e anche le altre donne ora appaiono meno grigie. Quando la riunione finisce, Leuzzi le viene accanto, ma Xenia non vuole dimostrare preferenze. Parla con alcune compagne, prende accordi, dà disposizioni e solo quando tutto è finito accoglie sua figlia, con occhi che restano severi. Per scioglierla Leuzzi parla con tono leggero di abiti, di pettinature, di una festa da ballo che si farà, ma poi anche di politica, di organizzazione, nel modo in cui le sembra giusto interpretarla. Xenia resta rigida, urtata. Quella fame che sua figlia ha di vita, di dolcezze e morbidezze e facilità, è come un'offesa fatta a Mimmo, a lei, a tutte le scelte che hanno compiuto, ai sacrifici. Xenia la conosce bene, quella fame, ma pensa che il suo dovere sia di mortificarla e di educare le sue figlie alla rivoluzione e al partito. All'incrocio di via Nomentana, da una grossa macchina, una voce maschile urlò un insulto. Ada abbassò il finestrino, prevenendo il seguito disse: «Donna al volante, pericolo vagante!» E poi accelerò, lasciandosi indietro strombazzamenti e sguardi malevoli. Parcheggiò, si tolse i guanti che usava per guidare e li mise nella borsetta. Entrò nel cancello e il portiere, che aveva seguito tutta la sua manovra, non smetteva di guardarla come una rarità. Poi si scosse e, recuperando l'abitudine alla vigilanza, le chiese dove andava, da chi. «Dal ministro Sereni, sono la cognata», disse Ada, e passò. Quando le aprirono, molti abbracci, molta eccitazione. Zia Ermelinda e le ragazze e Xenia piene di domande e racconti. Mimmo chiuso nel suo studio. Deve finire un articolo e Xenia impone di non disturbarlo. Le notizie, i saluti da parte di questo e di quello, i regali. Però delle ragioni, delle speranze, delle necessità per cui si trova ora in Italia, Ada non dice e nessuno le chiede. L'abitudine ai segreti, del resto, non è una novità. Vanno a cena e ancora Mimmo non si fa vedere. Xenia dice che mangerà più tardi, come la maggior parte delle volte. Ada ha un impegno, non può trattenersi più a lungo. Prima che se ne vada, Xenia si risolve a interpellare Mimmo, almeno per un saluto. Dopo aver bussato, entra con Ada nello studio. Mimmo è dietro la scrivania ingombra, carte e libri lo circondano come una siepe. Mimmo si alza, abbraccia Ada e per un momento solo è come tanti anni fa, la vicinanza e l'affetto. Però Mimmo non invita Ada a sedersi. Resta in piedi lui stesso perché l'incontro sia breve. Manda saluti e auguri e di altro non chiede. Della guerra in Palestina e delle attività illegali di Ada certamente sa molte cose, ma non ha intenzione di parlarne. Sulla porta, mentre Ada cerca i guanti nella borsa, una raccomandazione insistita. Sta attenta, le dice Mimmo a bassa voce tante volte. I rischi che Ada sta correndo sono reali e consistenti, dunque avrebbe tutte le ragioni per pensare che quell'invito alla prudenza venga da quello stesso affetto, da quella stessa vicinanza. Però la paura che Ada legge nei suoi occhi è più grande e sfuggente. Era la nuova puntata di Il gioco dei regni di Clara Sereni. La alta voce che l'ha letta era quella di Monica Piseddu, la 22esima puntata di questo ciclo del programma ad alta voce a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. La regia è di Riccardo Amorese e le puntate si possono riascoltare sul sito raiplayradio.it. Nella pagina del programma ad alta voce è anche possibile trovare l'elenco dei brani musicali inseriti in ogni puntata. Di solito viene inserito il giorno successivo.